Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, partiamo dal nuovo mais, il Pioneer 1507. La Commissione UE ha ribadito di essere legalmente obbligata a procedere verso l'autorizzazione della coltivazione del nuovo mais transgenico, senza però fornire data e tempi appunto dell'ingresso in vigore dell'autorizzazione di questo prodotto. La Commissione aggiunge, da un punto di vista pratico, a prescindere da quando verrà presa la decisione, è molto probabile che gli agricoltori piantino il nuovo mais già quest'anno, così il portavoce del commissario UE all'agricoltura, aggiungendo che in ogni caso un'eventuale coltivazione del mais, il Pioneer 1507, molto verosimilmente avverrebbe solo in Spagna. I lavoratori europei che si trasferiscono in altri stati contribuiscono positivamente all'economia locale delle città dove vanno dunque ad abitare. Lo dice uno studio della Commissione basato sul confronto tra 6 grandi realtà europee. Alcune conferme, ma anche qualche sorpresa, arrivano dallo studio della Commissione europea sull'integrazione e la migrazione realizzato nel 2011 in 6 città, a Barcellona, Dublino, Amburgo, Lille, Praga e Torino. Gli italiani, ad esempio, sono a sorpresa la comunità più numerosa a Barcellona, con il 31% delle presenze, seguiti dai francesi al 16%. A Torino, invece, la comunità più numerosa in assoluto è quella dei rumeni, il 91%. L'impatto positivo di queste presenze si traduce a volte anche in maggiori entrate per le casse della città ed è proprio il caso del capoluogo piemontese, dove il gettito fiscale dei contribuenti stranieri frutta nel complesso alle casse pubbliche un netto di 1,5 miliardi di euro. Torino emerge anche per buone pratiche rivolte a stranieri che aspirano a diventare imprenditori. La locale Camera di Commercio con gli uffici delle entrate e della sicurezza sociale hanno infatti messo assieme le loro forze per consigliare e sostenere quelli pronti ad avviare un'attività. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mentre la Svizzera, il governo di Berna, si prepara ad approvare e a fare propria dunque il voto del referendum di domenica scorsa sulla libera circolazione da parte dell'Unione Europea, arriva un primo monito. Col rischio sanzioni sullo sfondo e il primo negoziato sull'elettricità già interrotto, la Svizzera si prepara a tradurre in pratica il referendum anti-immigrazione di massa e lo fa avendo sul capo un primo richiamo dell'Unione Europea: onori i propri obblighi. L'esito della consultazione, che limita gli ingressi di lavoratori nella Confederazione Elvetica, congela di colpo le relazioni con Bruxelles e il primo segno concreto è l'annullamento della riunione del 17 febbraio. Alla luce della situazione attuale non è previsto alcun negoziato tecnico, chiarisce la portavoce della Commissione, bloccando d'un colpo trattative iniziate nel 2007 per l'ingresso della Svizzera nel mercato unico dell'energia. Il principio difeso dall'Unione è l'impossibilità di dividere la circolazione degli individui da quella dei capitali. Le quattro libertà fondamentali, avverte il presidente di turno del Consiglio, il greco Evangelos Venizelos, sono parte integrante dei rapporti. È fondamentale, spero si trovi una soluzione, apre il rappresentante per la politica estera Catherine Ashton, mentre già sono in corso contatti informali tra la Svizzera e i partner europei per spiegare l'esito del voto. Le conseguenze del grande freddo potrebbero infatti essere molto ampie e con questa consapevolezza Bern si prepara a tradurre in atto il voto popolare. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ecco, ora prima di passare la linea allo sport, abbiamo parlato pochi minuti fa della slavina che si è staccata dalle tofane a Cortina d'Ampezzo. La notizia: sono riusciti a liberarsi da soli dalla neve i due sciatori che sono stati toccati dalla valanga che appunto si è staccata poco fa e ha lambito in parte la pista Forcella Rossa Ravallès. Dunque, due persone che sono state coinvolte ma che si sono liberate da solo. Nel dubbio che altre persone fossero rimaste travolte, l'intera superficie della slavina è stata bonificata, escludendo fortunatamente questa eventualità. E con questo è tutto. Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.